Friuli nel mondo, 76esima trasmissione dedicata agli emigrati. Quatri Giacaris sot la nape. Dal Signor di Caterina Percotto. Il Signore San Pieri, come di consueto, anche in quel dì elevi una torpa al monte, con gli sbisacci sulle spalis, agli erompiez che chiaminavi, e San Pieri in malafessì aveva fatte fan. E gli entrarono in una chiesa di buoni sparons, la cite e bulive d'ogni il fuoco, ma non si vedeva anime vive, che tutti e ieri in avore pai chiami. Il Signore al della Santa Benedizione può al volta via viars la quarta pariessi. San Pieri, che agliere da ur, si fermà invece tu un lampin parmisi il fogolar e al tira giù la covertoria e parcucà c'è che aveva in tecite. Un sprofum di consolazione i detta al nas e le biele crodie e vongolave parzore vie tal miez dal guardi e dai fasoli. Ascotedette la chiave e biel chiaminan da ur al Signor al se la leve vie roseanti in squindore. Dopo finì della cerce, e ieri in laz appolsà su un tunto glar, davimmi tu di giù gli sbisacci, quanche il Signor all'ordenà a San Pieri di petenare. Al quartavi chiavei alla Nazarene, e San Pieri cul disgredei i faseve la rie, quanche tutti in tu momento al reste cule mani in aia. E Jesus al sberle, culi da ur, ovesso un volivo, Signor. Sicure, risplende il Signor, avete il voli che voi di mattine ha avuto il dolor di vederti a sbisiate cite e a roba la crodia che fuore in che ieri avore te chiams. Dal Cuet, di Riedo Pupo. Di Picciul non but clamat cheto, disegno, ma nessun si visava di un sicuro, e nanche nessun sapeva di un precis quanti ieri se chiade la giambe. Chei che son vivi spumò, lo han sentuto acclamar sempre il Cuet. La giambe, di Fiar, vi aveva inadattate a Glemon. La sua il conosceva Gio, un batte Fiar che inferrava i mui, e quanche le giambe dal dito al fa si secchia e si scurtà un tocut e i pendolave cence comando, che non gli era parondie, si rimpinà sulla carete e il mullu portà a Glemon. Lassù i batteri in fur le giambe gnove, un biel tondin di fiar gres come un polear, un miece pladine di siele insomma, sempre di fiar, dute foropade, parcioli il pes e anche pal respiri. Da pit in maneare in un cioc di negrum di agat verdiad di fiar. La giambe flapide la pleare in asquare e la leare in puntune ceng le torda al tondin. Al fasè quattro pas di colaudo e nessun di chei che si era in daz d'onge al chiatace di. Avio di l'impis non faseve neanche du, col cul poiata d'implen sulla sente di fiar, al stave di pape. La giambe buine e funzionava di sbatio e giuste per tignir equilibrio. Il lavoro agli era un cane, ma che dai bregons nessuno l'aveva pensato. Dopo un po' Duit crodeva che avessi bregons di Corean come i mux, e invece, e ieri cranie che calusive, aveva masse matezze di avaio. Un altro matezze agli era che il dissentassi su una chiadrea, e tocchiave da rar magari, giusto per giuia un esdrume di partidis lì di passei, quanto al combinare con la chiavrea. Arrivare a accomodarsi ben nanti un ebinte non lo muoveva. Vissos feminis, nanti non si provavi a mandarlo a clamare. Andavudis dos feminis lui, not un col, une prime e une dopo. E un slack di frutti, c'è gimui, c'è uniu. Che anzi, quanche a gimurar la seconda, agliere sentare. Che i che ne assistevi, per buine regole, all'era in acclamarlo. Cioè, a ninsù che la femmine lo appoggia. Proprio fumò, o finis la partita e poven. Mezz'ora dopo, lo clamare in premura. Cioè, a ninsù che tu das un par sorte. Agliere di Dilu, un par così adore. Ben, o finis il radio e dopo oven. Dos ore dopo, qua tornare in acclamarlo, agliere antimò calparare i radios. Cioè, a ninsù che tu has due maschios e une maschie. Allora il cioè, fai partenca la gambe di fiar, si infronta su un tebuine, al fase cricalis cenglis, ma gli va sul ticchetà. Una volta in pis, al spudate man e al scancellato i tiraglios. O, pur di bevi perduti. O voi su di sal, se no che l'hanno ferme. Tu sentivi in abati fis fis il cioc di agà di l'un supe pedrano. Oh, Checo, c'è un dì, disse la femmina. Il cioè quasi quasi si ingropà, par via che lo aveva inflamato Checo. Di tirare in fuori Gimolù, l'allora poi si ingropà dal giù. Al tira giù la scufa e giù cialava. Ma altri che non si muovevano e accragnuzzavano. Va dic caianza fan, disse anche. E si inviai giù pestialis, strapigninsi di ciocà con la gambe di fiato.